Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Per produrre energia si possono imbrigliare le acque, controllare una reazione nucleare, catturare i raggi del sole. Il radiodocumentario che vi proponiamo questa sera in collaborazione con History Channel è dedicato alla storia e alla tecnologia delle centrali energetiche americane. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario che state per ascoltare andrà in onda su History Channel martedì 2 giugno alle 18. Fino alla metà del XIX secolo gli uomini potevano lavorare solo durante le ore di sole e il lavoro era massacrante perché non c'erano macchine in grado di aiutarli. 150 anni dopo abbiamo trasformato quel mondo che ci dominava in questo. Un mondo elettrificato capace di soddisfare ogni nostro bisogno. Oggi, grazie all'elettricità che corre per centinaia di migliaia di chilometri sui fili della luce, attraversando monti e valli, fiumi e mari, controlliamo il clima, elaboriamo dati e curiamo la nostra salute. Quel flusso di elettroni carichi che definiamo corrente elettrica influenza profondamente il nostro modo di vivere, eppure pochi di noi sanno come si produce. Nel 600 a.C. i greci scoprono per primi che è possibile generare una forma di elettricità statica strofinando dell'ambra, ma non sfruttano la loro scoperta. Solo nel XVIII secolo Benjamin Franklin enuncia l'ipotesi che quel fluido elettrico può essere composto di particelle elementari. Più di un secolo dopo, quando si riesce a imbrigliare la corrente elettrica, gli inventori e gli industriali gettano le basi per la costruzione di quella che diventerà il colosso della generazione elettrica, la moderna centrale elettrica. Qualunque sia l'aspetto esteriore delle centrali elettriche moderne, alla base della loro progettazione e integrazione nella vita sociale e familiare, c'è l'aspra guerra combattuta più di 100 anni fa tra due giganti dell'industria e dell'innovazione, Thomas Edison e George Westinghouse. Il successo dell'uno o dell'altro deciderà il modo in cui l'elettricità sarà generata e distribuita, ma la prima battaglia tra i due è sul modo più sicuro per portare la luce nelle città americane. Nel 1879 Thomas Edison produce la prima lampadina a incandescenza per uso commerciale, con un filamento ad alta resistenza che si illumina se riscaldato da una bassa corrente. Poco dopo progetta un sistema di distribuzione della luce e dell'energia elettrica. E nel mese di settembre del 1882 inaugura la prima azienda elettrica, la Pearl Station, nel distretto finanziario della Lower Manhattan. Edison sa che il suo prodotto ha costi elevati e che per sostenerli deve servire un alto numero di utenti. Tuttavia, la decisione di portare la corrente continua a Pearl Street limita la sfera d'azione della centrale di Edison. Il principale concorrente di Edison, George Westinghouse, capisce presto che il futuro dell'elettricità è nella corrente alternata e nella distribuzione a lunga distanza. Mette quindi al lavoro la sua società, la Westinghouse Electric, per creare un sistema di distribuzione a corrente alternata che si propaga a onde alterne nei cavi di trasmissione con maggiore facilità e minore resistenza. Jason McKenzie, McKenzie & Company. Con la corrente alternata è possibile generare corrente ad alto voltaggio e poi abbassarla al voltaggio che si vuole. George Westinghouse acquista vari brevetti di corrente alternata dal geniale inventore serbo Nikola Tesla e decide presto di assumere come consulente a Pittsburgh. Insieme progettano tutti i componenti necessari per il successo della corrente alternata. La ricerca di una tecnologia per lo sfruttamento della corrente alternata mette Westinghouse in competizione diretta con Edison. William Myers, docente universitario. Fu una guerra tra due giganti dell'industria e della tecnologia, diventata famosa come guerra delle correnti. Combatterla fu una necessità perché il vincitore avrebbe dominato l'industria per sempre, o quantomeno nell'immediato futuro. Poiché la posta in gioco è alta, i due titani si combattono senza esclusione di colpi. Come quando Edison fa pressioni sulle autorità carcerarie dello stato di New York affinché adottino la corrente alternata del rivale per le esecuzioni capitali nel carcere di Sing Sing. Ma Westinghouse preferisce concentrarsi sul suo progetto e lascia che l'avversario continui a corteggiare l'opinione pubblica. Ed Reis, amministratore del Westinghouse Museum. Nel 1893 Chicago era stata scelta come sede della grande esposizione mondiale e entrambi avevano avanzato un'offerta per l'illuminazione notturna dell'esposizione, ben sapendo che un evento del genere non si era mai tenuto in nessun'altra parte del mondo. Con una proposta di appalto di $500,000, la metà di quanti ne chiede Edison, Westinghouse si aggiudica l'opera che gli dà la grande opportunità di promuovere il suo prodotto. Ancora Ed Reis. Aveva montato un gigantesco quadro elettrico per il controllo della corrente alternata e la cosa che più impressionò i visitatori fu vedere davanti a quel quadro un solo operatore. Un solo operatore era in grado di controllare tutte le apparecchiature elettriche dell'esposizione mondiale del 1893. 67 milioni di americani e ospiti stranieri visitano l'esposizione mondiale di Chicago nel 1893. Quando la mostra chiude, Tesla e Westinghouse sanno di aver dimostrato a tutti chi è il vincitore della guerra delle correnti. Ancora Ed Reis. Sia George Westinghouse che Nikola Tesla avevano capito che quella occasione era la migliore vetrina per la loro corrente alternata. La parola energia giganteggiava giorno e notte a caratteri luminosi e la notte lampi di elettricità accendevano di luce quel mondo fantastico. Dopo il primo grande successo, Westinghouse si prepara a vincere la scommessa più importante della sua vita, vincere il confronto con Edison per il diritto a costruire la più grande centrale elettrica del mondo. Le cascate del Niagara. Verso il 1880 gli scienziati cominciano a chiedersi se l'energia potenziale dell'acqua delle cascate non possa essere trasformata in energia elettrica da distribuire a industrie e privati assetati di elettricità. La International Niagara Commission invita i maggiori ingegneri del tempo a progettare un impianto che possa portare l'elettricità alle fabbriche della vicina città di Buffalo. È la grande occasione che George Westinghouse sta aspettando per la sua corrente alternata. Ancora William Myers. La decisione della commissione di optare per la corrente di Westinghouse, che può essere trasportata sui fili elettrici a grande distanza dalla fonte, segna il trionfo definitivo della corrente alternata. Dal 1892 al 1895 si lavora alla costruzione della condotta che deve far confluire le acque del fiume Niagara nelle turbine della centrale. Nell'estate del 1894 le gru calano le turbine del peso di 29 tonnellate, le più grandi del tempo, nei vani passaruote. Le turbine sono in pratica delle ruote a pale che vengono azionate dalla forza delle acque del Niagara. Quando finiscono i lavori della centrale, l'acqua viene fatta confluire attraverso condotte forzate negli alberi rotanti, tubi verticali di 2,5 metri di diametro, e da lì nelle turbine che azionano i rotori posti sotto al generatore. Nel generatore, un magnete crea un campo magnetico che attiva a sua volta una carica elettrica in un induttore, producendo elettricità. Nel 1896 la centrale elettrica del Niagara comincia a distribuire elettricità alla città di Buffalo a 32 km di distanza. Ma solo nel 1901, all'esposizione panamericana di Buffalo, il grande pubblico può finalmente assistere al meraviglioso spettacolo della distribuzione elettrica a lunga distanza. Per poter trasmettere l'elettricità a grandi distanze, i trasformatori della centrale aumentano il voltaggio a 11.000 volt, 4 volte il voltaggio della centrale di Westinghouse del 1891. Ancora William Myers. Gli ingegneri di Westinghouse avevano chiaramente capito che per produrre ingenti quantità di energia, al fine di servire un maggior numero di utenti, le grandi centrali elettriche dovevano essere dotate di trasformatori che, aumentando la tensione, potevano permettere il trasporto dell'elettricità a grandi distanze. La centrale elettrica del Niagara non è solo un progetto tecnico, ma anche un modello economico che sarà ripetuto più e più volte nel secolo successivo. Realizzato il primo, gli altri lo seguono. Dopo quella centrale, lo stesso Edison abbandona la corrente continua per la tecnologia della corrente alternata. Ancora Ed Reis. Penso che sarebbe onesto riconoscere a George Westinghouse la paternità della centrale elettrica moderna. È stato il catalizzatore, l'uomo che ha impegnato 10 anni della sua vita per convincere tutti dell'efficacia della corrente alternata. Nei decenni successivi, i progressi dell'ingegneria elettrica nel campo delle turbine, dei generatori e dei trasformatori spingono gli uomini a sognare nuove e più ricche fonti di energia idraulica. Sogno che si realizza nella diga Hoover, 40 anni dopo la nascita della centrale elettrica del Niagara. A 220 metri di altezza, con un peso di 6,5 milioni di tonnellate e un bacino artificiale di 240 km, la diga Hoover ha dimensioni gigantesche e resta ancora oggi una delle più grandi dighe nel mondo. L'Hoover trasferisce un voltaggio di 287.000 volt, che ci raccontano il grande balzo in avanti fatto dall'ingegneria. Nei decenni che intercorrono tra le costruzioni delle due centrali, si assiste alla fioritura di società elettriche private in tutto il paese. Ma presto gli imprenditori capiscono che per far fronte agli ingenti investimenti richiesti dalle infrastrutture, l'unica via possibile è la fusione delle loro società. Fred De Santi, vicepresidente della Public Service Energy and Gas Co. Tom MacArthur era stato a capo del Dipartimento della Giustizia del New Jersey. La sua idea, del tutto nuova per quegli anni, fu di collegare con pali elettrici New York City con Philadelphia e di fare incetta di tutte le aziende municipali di luce e gas e le società di rifornimento che si trovavano tra le due città. In tal modo riuscì a produrre la massa critica necessaria per scendere in campo e per finanziare la gigantesca infrastruttura che la nuova rete elettrica richiedeva. E la rete elettrica fa un ulteriore passo avanti. Per riuscire a sostenere i costi di esercizio e manutenzione degli impianti, occorre aumentare il numero degli utenti onde ottenere un conseguente incremento delle entrate. Nasce così il sistema unico della rete elettrica regionale, dalla quale si passa poi alla gigantesca rete elettrica interstatale, che copre oggi migliaia di chilometri quadrati. Grazie a una tecnologia d'avanguardia, l'elettricità può viaggiare sempre più lontano. Ancora William Myers. Nel 1903 la tensione elettrica era di 100.000 volt e questo aveva permesso di trasportare l'elettricità a 240 km di distanza. Nei primi anni 20 si era già arrivati a 220-230.000 volt, il che significava un raggio d'azione di 480 km dalla centrale. La maggior parte del lavoro di questa rete viene svolta dalle sottostazioni di distribuzione della corrente. Nelle sottostazioni i trasformatori aumentano o riducono il voltaggio instradando l'elettricità sulle linee aeree corrispondenti. L'elettricità che corre sui fili elettrici da 115 kV viene abbassata quando si avvicina a destinazione, cioè alle case. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario dedicato alle diverse tipologie di centrali energetiche. La domanda di elettricità è salita a dismisura nel corso del secolo, a mano che sono cresciuti il consumo e la domanda di maggiori comfort da parte della popolazione. Per soddisfare l'accresciuto fabbisogno di elettricità, le aziende elettriche si sono dotate di propri impianti. Ma passiamo ora a una centrale che consuma 36.000 tonnellate di carbone al giorno e non si ferma mai. Nella contea di Barstow, in Georgia, sorge su circa 1.000 ettari la centrale elettrica Bowen, per grandezza la seconda degli Stati Uniti. Di proprietà dell'azienda elettrica Georgia e gestita dalla stessa, questa centrale produce in 15 secondi l'elettricità che una casa consuma in un anno. Fatta eccezione per le centrali idroelettriche degli stati ricchi di acqua, qui la maggior parte dell'elettricità è prodotta in centrali a carbone. Quando il carbone era abbondante e la sensibilità nei riguardi dell'ambiente molto ridotta, le aziende elettriche ricevevano sovvenzioni per creare centrali a carbone sempre più grandi e più efficienti. Fred De Santi, vicepresidente della Public Service Energy and Gas Co. Nelle centrali elettriche c'erano gli ingegneri che si dedicavano al perfezionamento del processo industriale per aumentare l'efficienza termica della centrale. I metalmeccanici che miglioravano le tubature per portare le temperature a gradi più alti e gli addetti alle pompe d'alimentazione delle caldaie che lavoravano per produrre più pressione. Tutto questo lavoro per soddisfare il fabbisogno energetico di una popolazione in crescita e la domanda industriale. Gli ingegneri parlano in proposito di carico della domanda, carico che cambia secondo le stagioni e le ore del giorno. Per rispondere ai diversi fabbisogni di energia, una centrale deve avere tre impianti. Ancora Fred De Santi. Il carico di base, cioè il carico delle 24 ore del giorno, richiede un impianto che non si ferma mai. Il carico medio richiede un impianto che comincia a funzionare al mattino e si spegne di notte. Poi c'è il carico alto, le punte di carico che si verificano solo per poche ore al giorno e che sono gestite da un terzo impianto. Nessuno si sorprende se oggi è difficile o impossibile trovare una comunità che accetti un impianto delle proporzioni di quello di Bowen, con le sue incombenti ciminiere di 300 metri. Di conseguenza, le società elettriche pubbliche, come quelle della Georgia, hanno creato impianti più piccoli sia in termini di estensione, sia in termini di impatto ambientale. Gli impianti a combustione, come quello di Dolberg, nel nord-est della Georgia, hanno sostituito il carbone con il gas naturale o il petrolio, sostituendo la caldaia con un superpotente motore a getto. Insieme, le 8 unità della centrale di Dolberg producono circa 600 MW di corrente elettrica. meno di quanta ne produce un'unità della centrale Bowen. Ragion per cui le turbine sono usate solo per produrre, in caso di bisogno, un supplemento di energia. Oggi il mercato dell'elettricità e la pressante richiesta di un'energia sostenibile, più sicura e più pulita, stanno portando alla costruzione di impianti più piccoli e sparsi uniformemente sul territorio, smentendo così il motto dell'industria: più è grande, più è bello. Le grandi centrali elettriche costruite durante gli anni successivi alla Grande Depressione producevano molta energia, ma negli anni 30 e 40 le campagne non usufruivano ancora di quel servizio. Costruire linee aeree per zone così remote risultava troppo costoso, quindi non erano in rete. Nel 1933 il presidente Roosevelt e il Congresso creano l'Ente per la Valle del Tennessee e due anni dopo l'Ente per l'elettrificazione delle zone rurali, con il compito di portare l'elettricità nelle campagne americane dove solo il 10% dei contadini è collegato alla rete nazionale. Vengono allora costruite nuove dighe per un totale di 42 e viene lanciato un grande progetto idroelettrico che negli anni 70 raggiunge la capacità totale di 4 milioni di kilowatt. L'obiettivo dei due enti è a questo punto raggiunto. Il 98% delle campagne degli Stati Uniti è collegato alla rete elettrica. Quando le capacità idroelettriche del bacino del Tennessee si esauriscono, l'ente della Valle del Tennessee comincia a cercare nuove forme di energia. Ed ecco la breve vita dell'energia nucleare, una tecnologia nata e invecchiata prima del tempo. Nel 1942 Enrico Fermi crea la prima catena a reazione nucleare autoalimentata in un laboratorio costruito sotto il campo di calcio dell'Università di Chicago. La sua scoperta inaugura l'era atomica. In una bomba atomica viene fatta implodere una quantità sufficiente di plutonio con una carica di tritolo, provocando una catena a reazione, detta anche esplosione per fissione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando gli scienziati riescono a imbrigliare l'energia elettrica, nasce l'industria del nucleare. Oggi, negli Stati Uniti sono in funzione almeno 100 centrali nucleari che soddisfano il 20% del fabbisogno nazionale. La Sinonofree Nuclear Generating Station della contea di San Diego in California fornisce energia a 2,5 milioni di case e di industrie. Se per una ragione qualsiasi gli ingegneri si trovassero nella necessità di interrompere la reazione nucleare, dovrebbero abbassare una serie di barre di controllo all'interno del nucleo. Le barre di controllo assorbono i neutroni prodotti dalla scissione dell'atomo interrompendo la reazione a catena. Ma la cosa sorprendente di questa centrale è che funziona ininterrottamente. Ray Golden, portavoce della Southern California Edison. Può funzionare 2 anni a piena potenza senza bisogno di nuovo combustibile. L'unità 2 della Sinonofree ha funzionato per 530 giorni consecutivi. Se fosse stata una centrale a gas, una centrale a petrolio, a carbone, saremmo stati continuamente costretti a trasportare qui tonnellate di combustibile per farla funzionare. All'esterno i trasformatori aumentano la tensione da 22.000 a 220.000 volt. La corrente così è in grado di raggiungere il sud della California. Ma l'energia nucleare, pur essendo una tecnologia relativamente nuova e apparentemente vincente, deve ancora riprendersi da un incidente accaduto a Harrisburg, in Pennsylvania. Ancora Ray Golden. L'incidente più grave dal punto di vista della sicurezza mai accaduto nell'industria dell'energia nucleare degli Stati Uniti si è verificato nel 1979 nella Three Mile Island. Era un reattore nuovo di zecca, con operatori veramente esperti. Alle 4 del mattino, per una strana combinazione di errori, sia umano che meccanico, gli operatori hanno lasciato che il nucleo del reattore, l'uranio, rimanesse scoperto per diverse ore. Senza l'acqua di raffreddamento l'uranio si è surriscaldato e si è fuso. La società dirà che la fuoriuscita di uranio è stata bassa, ma l'impatto sull'opinione pubblica è immenso. Da questo momento non si costruiscono più nuove centrali nucleari. Tuttavia, la maggior parte dei sostenitori dell'energia nucleare ne prevede una ripresa industriale. E i suoi fautori si chiedono se il nucleare non possa essere l'argomento più convincente per quanti si pongono il problema della salvaguardia dell'ambiente. Jason McKenzie, McKenzie & Company. Io penso che nei prossimi 30 o 40 anni vedremo crescere la percentuale del nucleare, perché questa è un'ottima soluzione per risolvere il problema del riscaldamento terrestre. Inoltre, il nucleare non produce scorie solide, ma scorie radioattive che dobbiamo imparare a trattare. Ma sono convinto che riusciremo a risolvere anche questo problema. È possibile, ma le 3.000 tonnellate di scorie che l'industria produce ancora non hanno trovato una destinazione e restano nelle centrali nucleari che le producono. E dal momento che le scorie restano radioattive per migliaia di anni, non c'è da sorprendersi se in quasi tutti i siti prescelti gli abitanti dicano «non nel mio giardino». Se il consumo di energia cresce, ci si preoccupa poco della conservazione delle scorie. Potranno gli impianti del futuro risolvere il problema? La storia delle centrali elettriche è segnata dai grandi progressi tecnologici degli ultimi due secoli, ma il futuro della generazione elettrica non potrebbe essere più incerto. Sappiamo di essere a un crocevia dove si incontrano le preoccupazioni per l'ambiente, il consumo sfrenato e i limiti della tecnologia. Oggi il fabbisogno energetico del paese è soddisfatto attraverso un sistema di reti elettriche regionali. In teoria, questo sistema permette di far arrivare l'elettricità dovunque sia richiesta. In realtà, soffre a soddisfare la domanda. L'assenza di altri sistemi per il trasporto dell'elettricità si avverte soprattutto nei mesi estivi, quando la domanda più alta provoca un calo di potenza. La situazione è resa ancora più grave dallo scarso interesse nazionale per il risparmio energetico. La concentrazione di anidride carbonica negli strati più alti dell'atmosfera è aumentata considerevolmente a partire dai primi giorni della rivoluzione industriale. E oggi è la prima responsabile dell'effetto serra che minaccia il nostro pianeta. Per combattere questa minaccia dobbiamo cercare una fonte di energia pulita. Ancora Fred De Santi. Credo che il solare sia la grande speranza di noi tutti, perché sembra chiaramente che imbrigliare il calore del sole sia la strada migliore per produrre energia. La conversione dell'energia solare in elettricità, praticamente senza costo, è per l'ambiente il miglior modo di produrre elettricità. Insieme ad altri metodi di conversione, come la conversione della forza del vento in energia o della forza dell'acqua, può portare gradualmente alla sostituzione delle centrali tradizionali e alla creazione di un'economia energetica di minor impatto, basata sul rinnovabile. Non dobbiamo dire se, ma quando. E io penso che il tempo sia vicino. Dobbiamo investire le riserve relativamente abbondanti e relativamente economiche dell'energia convenzionale per costruire un ponte tecnologico con il futuro. Perché le vecchie riserve sono limitate e non dureranno in eterno. Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel martedì 2 giugno alle 18. Un ringraziamento in redazione a Vittoria Mussini. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.